Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Mi appoggio al parapetto e guardo giù il mare e la sua schiuma. Quando dietro di me si apre la porta di una cabina ed ecco comparire la tedesca silenziosa nella sua splendida camicetta bianca anni 70. Quelle senza colletto, che sembravano di pizzo con disegni a fili colorati. Mi chiamo Luigi Giacchero, sono di Alessandria, ho 57 anni, sono architetto e ho una figlia di 25 anni. È arrivato il momento di dirlo. Mi sembra che, insomma, tenerlo segreto sia davvero sbagliato. È arrivato il momento di dire che lo scorso anno forse non tutti se ne sono accorti, ma durante l'evento live del 2012, del giugno 2012, a un certo punto è successa una cosa abbastanza deprecabile. È successo che il computer di Paolino Corleone è andato in pappa. Nessuno se n'è accorto perché l'abilità di Paolino Corleone è stata tale che sono partite delle musiche un po' così, a casaccio, e soprattutto si è riusciti, non ho capito nemmeno anche lì come, a mandare comunque i video che i 10 partecipanti alla serata avevano inviato. Niente, volevamo dirlo perché amiamo la trasparenza, un po' chi se ne frega, un po' però anche perché quest'anno Paolino Corleone non sarà con noi. Ecco. Questo mi sembra, bravo Paolo, mi sembra il silenzio giusto, possiamo ripartire. Non perché verrà a mancare, ma semplicemente perché si prende delle ferie e se ne va per i fatti suoi. Quindi, tutto per dire che, come dire, quest'anno siamo in buone mani, quindi. Quest'anno ci sarà Pietro alla Corte insieme a noi, insieme a tutti quelli che hanno voglia di venire all'evento live del 27 di giugno del 2013. Vi ricordo che dal momento che i posti stanno lentamente esaurendo, mica tanto lentamente, vi conviene, se avete deciso di venire, se avete trovato il modo per tenervi libera quella sera, prendete una babysitter, lasciate sta bambina alla babysitter una volta, non è un problema, si abituerà prima o poi nella vita a stare da sola. Avete un problema con il cane? Portatelo. No, il cane non si può, non possono entrare animali. Trovate un dog sitter, ha bisogno questo cane di stare da solo prima o poi. Avete i gatti? I gatti se ne stanno da soli, non c'è nessun problema. L'importante è che compiliate l'iscrizione che trovate sul sito di Radio 24 alla nostra pagina. Voi siete qui, Radio 24/voi siete qui. Entrate nel sito di Radio 24 e lì c'è arrivata la nostra trasmissione. In alto a sinistra c'è la mia foto, ci cliccate sopra e trovate la pagina in cui iscrivervi, in cui inserire i vostri dati, nome, cognome, bla bla bla. C'è un'altra cosa che avevo detto all'inizio e non l'avevo più ricordato. Ci sono due programmi preferiti da selezionare, perché giustamente il marketing ha detto, vabbè, se questi vengono al live, in teoria, programma preferito numero uno sarà Ben Voi Siete Qui. Non è così scontata questa cosa, quindi però evitate di farmi fare brutte figure, perché se mettete programma preferito al numero uno, Essere Benessere, uno dice, vabbè, scusami, allora l'anno prossimo facciamo un live di Essere Benessere, oppure programma preferito Voto Antonio, l'anno prossimo facciamo un live di Voto Antonio, programma preferito di... numero uno, che ne so, Bonini mi dice Stringer. No, aspetta, ne devo dire un altro per la regola del 3. 9 in punto. Allora, l'anno prossimo facciamo live di 9 in punto. Vi ricordo allora che per venire dovete semplicemente iscrivervi. È tutto gratuito, alle ore 21 nella sala collina della sede di Radio 24, via Monterosa 91. Via Monterosa 91. Non ci sarà Paolino Corleone, ci sarà Pietro alla Corte. 349-238-6666. Torniamo alla puntata di oggi e alla storia di Luigi, che parla di meganavi. Non parla di meganavi, parla solo di traghetti, battelli, qualunque siano state le navi che avete preso e sulle quali avete vissuto una magari piccola storia d'amore. 349-238-6666, oppure il profilo Facebook è Voi Siete Qui Radio 24. È il caso di Francesco, che su Facebook scrive: Venezia, sabato di carnevale di una decina di anni fa, su uno dei vaporetti, io in smoking che mi avviavo a una festa, lei turista francese, puntini puntini, e non dice nient'altro. Raccontateci un po' di più di quel traghetto sul quale avete conosciuto quella straniera e ci avete passato. Non bisogna per forza averla sposata, non bisogna nemmeno per forza avere concluso qualcosa, però è una serata in mezzo al mare, una nottata in mezzo al mare che vi è rimasta in mente o nel cuore. 349-238-6666, valgono traghetti piccoli, grandi, battelli, vaporetti, zattere, gommoni, qualunque sia stata quella notte che avete passato in mare, una barca a vela ad esempio, una notte in mare insieme alla donna per quella notte dei vostri sogni. Torniamo alla storia di Luigi. Luigi l'ha passata una notte in mare, era nel nord Europa ed era l'estate di tanti anni fa. Era il pomeriggio del 6 agosto 1978. Fermi sulla mia auto al piazzale del porto di Hoek van Holland, in attesa del traghetto che ci portasse ad Arvik, in Inghilterra. I miei tre amici e io stavamo ascoltando la radio per le notizie dall'Italia. Era appena morto Papa Paolo VI. Io avevo 22 anni e loro tutti più giovani di me. Decidemmo di partire all'improvviso quell'anno, caricando la tenda a casetta sulla macchina che con il telo interno e quello esterno e tutti i lunghissimi bastoni di ferro teneva già metà bagagliaio della 204 Breck bianca familiare. L'altra metà del bagagliaio invece erano cassette di pasta, sugo di pomodoro, scatole di tonno, piselli e simmental. Avremmo mica voluto morire di fame in quei barbari paesi del nord. E già, quell'anno decidemmo di fare Amsterdam, Londra, Parigi e poi Saint-Tropez. Tutto quello che fosse venuto lungo la strada. Questo gruppo di amici ero io, che avevo 22 anni, e gli altri avevano tra i 17 e i 18 anni. Decidemmo di partire in macchina, in tenda, per andare verso il nord dell'Europa. Siamo fuori circa un mese, insomma. Eravamo dunque già stati ad Amsterdam. Dall'Olanda si doveva arrivare in Gran Bretagna, appunto, con quel traghetto. Finalmente si sale sulla nave. I miei amici non spiaccicavano una parola d'inglese e si appoggiavano a me per qualsiasi banalità. E ovviamente vediamo salire a piedi un gruppo di floride ragazze tedesche. Ci entusiasmò non poco. Infatti appena a bordo e prima della partenza le raggiungemmo nei saloni e ovviamente dopo i primi sguardi e occhiate da pesci lessi, su insistenza dei miei amici, dovetti farmi avanti col mio inglese per tradurre tutte le stupidate che loro volevano dire. Tra le quattro ce n'era una, silenziosa, come in qualsiasi gruppo di amici. C'è sempre qualcuno diverso dalla massa. Si capiva che non gradiva l'assalto fatto da questo manipolo di quattro italiani cacciaroni. In questa situazione non mi sentivo neanch'io a mio agio. L'interprete plurimo e di gruppo era complicato, e insomma, se la sfangassero da soli. La nave parte. La notte sarà lunga, con il solo passaggio ponte e neanche la certezza di una poltrona su cui sdraiarsi, mentre le tedesche avevano addirittura le cabine. Dopo i primi sbaragli iniziali, i miei amici si erano calmati ed erano in giro per la nave a cercare un posto dove coricarsi, anche per terra. Non sapevo dove e con chi si fossero cacciati e nemmeno mi interessava. Io dall'alto dei miei 22 anni mi sentivo più forte di loro. E non avendo per niente sonno, da solo esco sul ponte a respirare a pieni polmoni il vento del nord. Dietro le luci della costa olandese, davanti il buio più profondo. Mi appoggio al parapetto e guardo giù il mare, la schiuma, quando dietro di me si apre la porta di una cabina. Ed ecco comparire la tedesca silenziosa nella sua splendida camicetta bianca anni 70, quelle senza colletto che sembravano di pizzo con disegni a fili colorati. Mi vede e abbassa gli occhi. D'altronde non ci eravamo neanche presentati. Mi faccio avanti, la saluto. E allora ci presentiamo. Hi, I'm Gigi. Hi, Gigi, I am Ina. È un po' ruffiano e un po' perché ci credevo veramente. Le chiedo scusa per i miei amici invadenti e chiassosi. Lei si schernisce e dice che non importa. Anche lei non riesce a dormire, non ha sonno e preferisce godere del mare di notte piuttosto che il chiuso della cabina. Come Monday night, the day of work is done. Tuesday morning looms, the gray of ordinary nights. Start by putting off your chores and all the crushing bores. Say your morning prayer, sing a rousing song. Then sing it on the long walk home. Ina mi invita a passare la barriera tra il pontile dei poveri senza cabina e il suo pontile privato di viaggiatore con cabina. Iniziamo a parlare e mi scoprì con un inglese fluente che nemmeno io sapevo di avere. Ci raccontammo un po', io del tipo di vacanza estiva che stavo effettuando e lei del weekend di corso di inglese che stavano andando a fare in Inghilterra con le sue compagne di scuola. Mi invitò ad andare al bar della nave, a prendere qualcosa. Rientrammo dentro al pancione della nave e ordinammo due birre enormi. Si sa che un po' d'alcol scioglie la lingua e abbatte le barriere. Così iniziamo a ridere di ogni stupidata che dicevamo, come vecchi amici, come due che si vogliono conoscere. Finita la birra uscimmo fuori al vento del mare. La nave tutta illuminata ci faceva da città deserta. Passaggi, ponti, scale interne ed esterne, colpi di vento più forte ci costringevano a ripararci tra le nostre spalle. Qualche abbraccio e angoli più caldi, meno esposti al vento. Le uniche persone che incontravamo erano i marinai e il personale di servizio, che con un sorriso ci salutavano ogni volta che li incrociavamo. Mi ricordo di una ragazza con i capelli castani, non magrissima, classica forma tedesca, e aveva, mi ricordo, questa maglietta degli anni 70, più timida di tutte le altre. La traversata non ricordo quanto durasse, 6-8 ore. Ma l'alba ci trovò sdraiati e abbracciati tra le gomene della nave nell'angolo più riparato. Volevamo vederla insieme, quell'alba, e su quella nave e quella notte. In prossimità della costa inglese, poco prima dello sbarco, a un certo punto si avvicinarono due marinai con due enormi tazze di caffè bollente e ce le porsero come se le avessimo ordinate. Furono molto gentili. Forse facevamo loro pena o tenerezza, non lo so. Ci avevano visto tutta la notte girare sui ponti e ci avevano ritrovati lì, sulle gomene, infreddoliti. Un gesto difficile da dimenticare. Così come è difficile dimenticare Ina. Bevemmo il caffè e poi la salutai. Lei tornò in cabina per prepararsi a scendere. Intanto la nave stava per attraccare. La gente si svegliava. Io non sapevo dove fossero finiti gli altri tre. E tutta la nave tornava a vivere e a prepararsi per l'attracco. Ritrovai i giovani amici al bar belli riposati. Avevano dormito per terra nei saloni con la moquette. La nave attracca. Inizia lo sbarco. Chi è in possesso di auto deve fare un percorso carrabile per arrivare alla frontiera del porto. Quelli a piedi invece un altro percorso. Mentre scendo con la macchina le curve del porto, cerco come un pazzo di vederla tra le persone a piedi, ma niente. Non la riconosco e non la vedo. Passiamo i controlli doganali inglesi e appena fuori accosto in mezzo al casino di guida a sinistra e problemi di incroci. Ma trovo la forza di fermarmi, sperando di vederla ancora una volta. Niente. Mai più vista. Ina, chissà se qualche volta in questi decenni hai ripensato a quella notte. Io sì. Perché alla fine gli amori sulle navi valgono un po' come i casinò sulle navi da crociera, che mi dicono, non ci sono mai stato, mi dicono funzionare solo quando molli gli ormeggi e navighi, non so se in acque internazionali o comunque quando la nave è un mondo a sé. È allo stesso modo, quando sei in alto mare, magari di notte c'è qualcuno che non conosci, che non conoscevi e nemmeno conoscerai mai più, lì si crea un piccolo spazio solo per voi. È quello che è successo esattamente a Luigi e a Ina. Pronto Luigi? Pronto, ciao Matteo. Come stai? Bene, bene, grazie. Dove ti trovi? Mi trovo a casa, in Alessandria. In Alessandria, giustamente. Tu che lavoro fai, Luigi? Sono architetto. Dire che è un lavoro in questo momento... Ma infatti ti sento con uno scazzo addosso, Luigi, che mi mette quasi in inquietudine. Che succede? Raccontami. Wow. Assolutamente no, sono i problemi della mia professione in questo momento. Ah, ok. Tutto il resto va benissimo. Cioè sei libero professionista, sì, in una, sì, società, sì. Tua, cioè uno studio tuo? Sì, uno studio mio, sì. E sei da solo? O hai... Da solo, sì, sì. E che tipo di lavori fai? Beh, ristrutturazioni, arredamenti... Ma adesso non c'è, scusami, non c'è il 50% detraibile? Sì. Non aiuta? È stato varato l'altro giorno, aspetta. Ah, ok, giorno. Perdonami, siamo qua che aspettiamo l'onda lunga che arriva adesso. Sì, appunto. Sono tutti qui a ristrutturare. Sì, infatti. Ma scusami, tra l'altro una cosa che mi sono sempre domandato, avendo una sorella architetto, quindi in realtà è una colpa enorme, ma l'architetto è proprio necessario per fare una ristrutturazione? So che ti vengo a dare una bastonata sui piedi. No, assolutamente, no, non è quello. È necessario un professionista, che sia architetto o altri tipi di professionisti, non importa, è necessario qualcuno che firmi delle pratiche comunali per essere presentate presso gli uffici tecnici. Ah, ok, ok, quindi di fatto serve, cioè, o basterebbe un geometra? Anche ti ho nominato, è un po' come nominare cani e gatti o interisti milanisti, mi sembra di capire. No, va benissimo, va benissimo. Luigi, torniamo invece a quell'estate. Quanti anni era? Quanti anni fa erano esattamente? Hai detto anni 80, giusto? No, 70. 78, adesso non mi ricordo più quanti anni fa, 30 anni fa, più di 30 anni fa. 70, sì, sono 35 direi, sì, sono 35. E tu avevi 22 anni, e com'è che eri il più grande di tutti? Com'è che di solito non si è coetanei quando vivo in un piccolo paese e c'erano poche gente giovane, insomma, e quindi c'erano tutti i miei amici di 17, 18, 19 anni, e con questi tre avevo legato più che con altri, e così decidemmo di partire e fare una vacanza così. Quindi erano amici di paese, cioè erano gli amici? Sì, non erano. Certo. Che vedi ancora? Li frequenti ancora? Ti capita di incontrarli? Qualcheduno sì, altri no, altri assolutamente no, perché passano gli anni, sai com'è la vita. Sì, più o meno sì, non la so tutta, però una parte direi. Una parte. E ovviamente, vabbè, la domanda che deve arrivare a un certo punto è una domanda retorica, perché la immagino, non hai mai più saputo nulla, non hai mai avuto più idea di che fine abbia fatto. Assolutamente no, nel mondo più totale, proprio più niente. Mi ero fermato solo per salutarla, perché mi mancava proprio questo pezzo del saluto, oppure che ne so, averle chiesto l'indirizzo, no, di telefono, niente, non ci ho pensato proprio tutta la notte. Era bello vivere così, insomma. E quindi... io vivo molto di emozioni, quindi di sentimenti, quindi lascio perdere sempre la parte razionale delle cose. Quindi... Luigi, tu sei sposato o hai una compagna? O... sì, sono sposato, ho una figlia che abita a Ginevra. E, insomma... Che abita a Ginevra? Cosa fa? Sì. Lavoro in una società di import-export. Ho capito. Tua moglie sa che hai raccontato? Guarda, è una stupidaggine, lo so. Però tua moglie sa che no, è non lo sa. Ah, ok, perfetto. E non ascolterà la puntata? Sì, ascolterà, sì, certo. Dopo gliela manderò in podcast. Ah, ok, perfetto. Luigi, ti lascio tornare al lavoro. In realtà non stavi lavorando adesso, per cui... No, non stavo lavorando, anche perché oggi sono presidente della... commissione elettorale, quindi adesso tocca a me a fare il mio turno, devo andare all'ordine. Cioè, in che senso, scusami, devi contare? Ci sono le votazioni per il rifacimento del consiglio dell'ordine in questo periodo. Dell'ordine degli architetti? Degli architetti di Alessandria. Ah, ok, per cui devi andare... Cosa fate? Spoglio di schede? Cos'è? Sì, vengono a votare, ci sono spoglio di schede, verrà eletto al nuovo consiglio. Tu sei per tenerlo l'ordine? Non lo so. Luigi, ti ringrazio, in bocca al lupo per tutto. Grazie Matteo, grazie. Ciao, buona giornata. Ciao, grazie. Sono arrivati due messaggi che dicono: ma questa storia l'ho già sentita, o ci siamo rincoglioniti tutti noi o... Ah, hai ragione, era una storia simile, raccontata da un tizio, non ricordo il suo nome, che aveva passato una notte in nave con una svedese. Allora, a questi due messaggi rispondo così, poi magari siamo rincoglioniti io, Tiziano e Margherita, ma credo di no. Voi siete qui. È su un molo. Luigi, nella foto che ci ha mandato e che trovate sul sito della radio, radio24.it, alla nostra pagina, voi siete qui. È su un molo che a me piace immaginare essere un molo del nord Europa, della Svezia o dell'Olanda, poi magari è un lago, non lo so, però a giudicare dalle barche che ha alle spalle sembrano delle golette, qualcosa del genere. C'è addirittura uno spruzzo d'acqua altissimo che sembra festeggiare qualcosa. Lui è appoggiato a una ringhiera, su un paio di jeans, una maglietta con le maniche lunghe e degli occhiali scuri. Ha un aspetto giovanile, Luigi. Traghetto. Sostantivo maschile. Trasporto di cose o persone da una sponda all'altra di un braccio o corso d'acqua mediante apposite imbarcazioni. Traghetto spaziale, navetta spaziale. Etimo derivato di traghettare, data secolo XVI. Credo che sia stato svelato l'arcano, cioè addirittura mi scrive... No, ho sbagliato, no. cioè allora, leggo il messaggio. Ciao Matteo, ti avevo già scritto in occasione di un'altra puntata. Era il 1985 e navigando con Silja Line dalla Svezia alla Finlandia per le vacanze, sulla nave conobbi e trascorsi tutta la notte con Rita Hanninen, mai più vista. È lui? Non è lui? Mi pare che sia proprio lui, cioè la storia che abbiamo... Scusami, abbiamo questo problema, se ci stai ancora ascoltando, visto che il messaggio è arrivato ai 31, 4 minuti fa, ci dici se sei tu la storia di cui abbiamo parlato l'anno scorso. So che sembriamo dei rimbambiti, però facciamo ogni stagione 215 storie, quindi a breve, a fine giugno, ne avremo fatte 430. Allora è capace che le storie un pochettino si incrocino tra di loro, soprattutto nella testa. E invece, ciao Matteo, storia fotocopia mi è successa nel 79. Solo che la nave andava in Grecia, la ragazza era francese e io ero uno dei tre pirla. Il fortunato era il mio amico Danilo, firmato Giuseppe lo Sfigato. Giuseppe, però scusami, non è proprio una storia fotocopia allora, perché Luigi quantomeno è rimasto abbracciato tutta la notte con lei. Questa invece ricorda la tua storia, quella di moltissimi film. C'è anche un film un po' in stile Moccia di qualche anno fa con mi venisse un nome, ragazzi. Porca, ogni volta è così. Allora, come si chiama l'attore romano? No, aspetta, perché se entriamo in questo delirio devo trovare il nome. Allora, il regista, i due fratelli romani, che uno fa regista e l'altro fa l'attore, quello con la F, Muccino, bravo Tiziano. C'è un film di qualche anno fa con Muccino che va in Grecia con gli amici, e durante il traghetto c'è una storia esattamente come quella di Giuseppe non ricordo la sceneggiatura, Tiziano. La sceneggiatura è quella lì, un gruppo di amici che dopo la maturità va in Grecia. L'estate della maturità, la notte prima dell'estate, la notte dopo gli esami. 349-238-6666. Di nuovo l'avevi già letta? No, vi ho detto che non l'avevo già letta. Adesso vi racconto invece una storia che non ho sicuramente già letto, e che è la storia, come dire. Se esiste una storia d'amore su una nave, su un battello, questa è la storia d'amore da battello che non finisce mai. Esce dalla penna di uno scrittore straordinario, incredibile, che inventa questa roba che si chiama realismo magico, che è Gabriel García Márquez. Non è Cent'anni di solitudine, che è il suo romanzo più famoso. È un romanzo che lessi quando ero molto molto piccolo, perché ricordo ne parlò e non capii nulla. Molto molto piccolo, intendo, per me molto piccolo, sono 19 anni. Non capii nulla perché appunto lo lessi tipo lo devo leggere, perché ne parlò Baricco, ricordo, quando faceva i programmi in televisione. Però rimase impressa nella mia testa quest'ultima pagina. Siamo su un battello, immaginatevi i Caraibi, un luogo misterioso come tutti i luoghi di Márquez, che esiste ma non esiste in realtà. Ed è una città di fluviale dove c'è un grande porto. Su questo battello, dove è stata issata una bandiera che indica che gli altri devono stare lontani perché c'è il colera a bordo, quindi è come se fosse una sorta di quarantena, in realtà ci sono solo tre persone: il capitano e queste due persone che sono un uomo e una donna, sono Florentino Arisa e Fermina Dasa. È una storia che appunto ha a che fare con la fine che non arriva mai e col desiderio che l'amore possa essere eterno. Mentre serviva la razione di uova, il vassoio di fettone di banana, il recipiente di caffè latte, il battello uscì dalla baia con le caldaie al minimo. Avanzò nei canali attraverso le trapunte di tarulla, il loto fluviale dai fiori violetti e dalle grandi foglie a forma di cuore, e tornò alle paludi. L'acqua era azzurro rosa per l'infinità di pesci che galleggiavano di fianco, uccisi dalla dinamite dei pescatori di Frodo, e gli uccelli terrestri e acquatici volavano in cerchio sopra di loro con stridii metallici. Il vento del Caribe entrò dalle finestre con lo schiamazzo degli uccelli e Fermina Dasa sentì nel sangue le pulsazioni disordinate del suo libero arbitrio. Sulla destra, torbido e parsimonioso, l'estuario del Rio Grande della Magdalena si estendeva fino all'altro lato del mondo. Quando non restò più nulla da mangiare nei piatti, il capitano si pulì la bocca con l'angolo della tovaglia e parlò in un gergo sfacciato che chiuse definitivamente con il prestigio delle buone maniere dei capitani di fiume. Perché non parlò per loro, né per nessuno, ma cercando di mettersi d'accordo con la sua stessa rabbia. La sua conclusione, dopo una sfilza di improperi barbarici, fu che non trovava come uscire dall'imbroglio in cui si erano messi con la bandiera del colera. Florentino Arisa lo ascoltò senza battere ciglio. Poi guardò dalle finestre il cerchio completo del quadrante della rosa dei venti. L'orizzonte nitido. Il cielo di dicembre senza una sola nuvola. Le acque navigabili per sempre. E disse: andiamo a dritta. A dritta. Ancora verso la dorada. Fermina D'Asa sussultò perché riconobbe l'antica voce illuminata dalla grazia dello Spirito Santo. E guardò il capitano. Era lui il destino. Ma il capitano non la vide, perché era annichilito dal tremendo potere di ispirazione di Florentino Arisa. «Lo dice sul serio?» gli chiese. «Fin da quando sono nato», disse Florentino Arisa, «non ho detto una sola cosa che non sia sul serio». Il capitano guardò Fermina D'Asa e vide sulle sue ciglia i primi fulgori di una brina invernale. Poi guardò Florentino Arisa, la sua padronanza invincibile, il suo amore impavido, e lo turbò il sospetto tardivo che è la vita più che la morte a non avere limiti. «E fino a quando crede che possiamo continuare con questo andirivieni del cazzo?» gli domandò. Florentino Arisa aveva la risposta pronta da 53 anni, 7 mesi e 11 giorni, notti comprese. «Per tutta la vita», disse. Ringrazio tutti quelli che mi ricordano che il film di cui parlavo prima di Muccino è Che ne sarà di noi, e c'era esattamente quella storia lì, maturità e poi tutti in Grecia. 349-238-6666. Paolino, volevo chiederti un piacere, mi abbassi per piacere la sigla, perché vorrei ringraziare Davide Romagnoni, che è, oltre ad essere un ascoltatore, è il leader dei Vallanzasca. Lo conoscete i Vallanzasca? E mi ha mandato adesso un pezzo di una loro canzone che parla esattamente di questa cosa qua, di un amore che nasce in un traghetto e che dura il tempo di una traversata. Saremo trasparenti. Grazie a Davide Romagnone, grazie a tutti quelli che hanno reso possibile anche questa puntata. Io ricordo che sono fondamentale Margherita Ina, senza la quale questo programma non andrebbe avanti, Tiziano Bonini che sceglie tutto quello che sentite, tutto quello che vi godete, Paolino Corleoni che rimane fino venerdì, fino a fine settimana, e tutti quelli che ci danno una mano a mettere i pezzi di questo programma che andrà avanti fino a fine giugno e poi in una versione speciale tutto il mese di luglio. Vi aspetto il 27 di giugno alle 21 per il live di Voi Siete Qui. Ringrazio infine Luigi, la storia di oggi era la sua e anche lui è un punto rosso su una mappa. Sono Roberto Cotti, abito a Milano. La storia di domani è la mia e parla del giorno della valanga. Questa è la mia storia e io sono qui.